che è stata alla Camera Infermieristica al Parlamento Europeo, scusate. E poi perché difendete dei valori anche laici e liberali. Insomma, sono tutte delle ottime ragioni. Sono tutte delle ottime ragioni per votare per voi. È la prima volta che lo fa, professore. Sì, è la prima volta che lo faccio. Quindi è un passo importante. È un passo importante. L'ultima volta ho votato per Berlusconi, invece così ci sarà un voto in meno. Allora, Piero Melograni, lo avete ascoltato, l'ultima volta ha votato per Berlusconi, ci sarà un voto in meno, dice, quattro intellettuali di aree diverse che scelgono di votare lista Bonino-Pannella. Continuiamo un po' ad approfondire questo tema con un altro intellettuale importante della scena italiana, della scena culturale italiana. Si tratta del professor Massimo Fagioli, che abbiamo in collegamento in diretta in questa fascia della programmazione e che ringraziamo molto per essere con noi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che idea si è fatta? Siamo alla fine, tanto è già andato a votare, ci andrà, non ci andrà, che fa? Ci vado tra appena finita la telefonata, alle 7. E che cosa vuoi? Esco. Voterò Pannella Bonino. Bonino Pannella, com'è, non l'ho visto bene. Senz'altro metterò anche questi nomi di preferenza. Lei è stato considerato, poi la stampa negli ultimi anni l'ha spesso associata a Bertinotti, l'ispiratore del progetto della sinistra arcobaleno. Quell'area politico-culturale di riferimento non le piace più? È una storia che confermo, è una storia entusiasmante, affascinante, di questa ricerca di Fausto Bertinotti verso quella che lui chiama psicologia del profondo, per la ricerca di una nuova sinistra che non sia più il paleocomunismo degli anni 10 e 20 o 5 e 17. Quindi perfettamente d'accordo, soltanto che ultimamente non mi ha molto convinto questa scissione, perché ci sono elementi in questa sinistra di libertà in cui c'è troppo di un socialismo, un nuovo socialismo che però non è abbastanza laico, non è abbastanza deciso a sostenere la separazione assoluta tra Stato e Chiesa. Perché invece ritengo che l'identità umana sia nella separazione del pensiero religioso. Non è assolutamente ammissibile, considero una cosa selvaggia, proprio assolutamente primitiva e violenta, che somiglia al fascismo, l'imporre principi religiosi a liberi cittadini di uno Stato democratico. Questa storia deve finire assolutamente, non è possibile. La religione, se uno vuole adorare quello che gli pare a casa sua, lo faccia, è un fatto privato. Ma che venga come cosa pubblica, ho sentito troppe affermazioni da parte di alcune persone di questa sinistra libertà, per cui si dichiarano cattolici eccetera eccetera, e cattolici comunisti, e la cosa a me non va assolutamente. Nel Partito Radicale, addirittura con Pannella, Marco eccetera, c'è un'antica memoria di giovinezza, per cui io 50 anni fa votai radicale. Insieme, sì, ero piccolo ancora, ero giovane, cioè non piccolo perché votavo. E però votare radicale quando Pannella fondò il Partito Radicale. Poi, varie vicissitudini, sono stato sempre a sinistra e mi piace questa cosa, perché questi personaggi, cioè Pannella e Bonino, hanno 50 anni di coerenza, di pulizia, di lealtà, di ricerca della libertà, per, io ci aggiungerei, realizzare un'identità umana che non sia più sottomessa alla religione. La cosa peggiore, adesso non voglio scantonare in fatti professionali, che fa star male le persone, è la sottomissione alla religione, questo è al limite anche alla religiosità. Per cui mi si concordano tutte queste cose. Tra antiche memorie di giovinezza, la coerenza, la stima assoluta, totale per queste persone che hanno portato avanti anche con sacrifici notevoli, pur restando sempre in minoranza, quindi non si possono accusare assolutamente di aver fatto le cose per gestire un potere, ma per portare avanti un principio, una ricerca su questa identità, che è anche la mia ricerca. E Marco ha avuto modo anche di apprezzare certe idee che io ho tirato fuori a proposito della nascita umana, dell'uguaglianza, che l'uguaglianza sta nella nascita, del dare dopo 3.000 anni di logos occidentale e di ragione maschile l'identità alle donne, eccetera, eccetera. Occorre altro? Insomma, o può bastare? No, questo basta e avanza, però se ha tempo le chiederei ancora qualcosa proprio sulla sua ricerca. Cioè sulla... La mia ricerca è una ricerca che parte dalla medicina, io ho fatto il medico. Partito dal medico, ho fatto la specializzazione in neuropsichiatria e mi sono dedicato alla cura della malattia mentale. Per curare la malattia mentale ho dovuto capire come funziona il cervello, come funziona la realtà mentale. Certo. E non il cervello come neurologia nel senso della trombosi o emorragia cerebrale o la sclerosi laterale amiotrofica, quella è medicina organica, quanto la malattia mentale. Ho dovuto capire la psicologia e la cosa e ho scoperto che questa identità umana come razionalità fredda, di buona origine di Platone, di buona origine di 3.000 e passa e forse anche più anni fa, non è la vera realtà, perché esclude le donne dall'essere esseri umani, c'è questa tragicità. E questa cosa non è servita nemmeno la rivoluzione francese dell'illuminismo a dare i diritti alla donna. E invece io cardine è che le donne sono esseri umani come gli altri, cioè essendo ugualmente esseri umani, e però sono assolutamente diverse. E quindi la realtà della dialettica tra esseri umani è tra diversi. Non si deve assolutamente essere razzisti, perché essere razzisti significa essere nazisti. E questa originaria uguaglianza si trova nella nascita umana. Per cui alla nascita umana bisognerebbe proprio, io dico, fare una fantasia di sparizione verso la realtà fisica. Non esiste bambino e bambina, esiste un essere umano che inizia la sua vita. Dopo ci sarà la differenziazione, ma poi questa uguaglianza di fondo rimane anche quando c'è la dialettica tra due diversi, come può essere appunto nel rapporto sessuale in particolare, perché nella società si unifica medico maschio, medico femmina, sono uguali, mentre nel rapporto uomo-donna privato, intimo, scatta una differenza e bisogna che ognuno di noi accetti e reagisca bene di fronte alla differenza, che peraltro è anche una differenza sconosciuta, perché quello che passa per l'animo di una donna per un uomo e quello che passa nell'animo di un uomo per una donna non si sa, però deve essere anche una reazione fisica, fisiologica, ovviamente, spero bene. E io poi fuori mi dedico a cercare di capire qual è la realtà, possiamo dirlo, ormai inconscia della mente umana, per vedere poi anche queste differenze tra maschio e femmina. Ma il cardine è il rapporto tra diversi. Che cosa si estende poi al fatto che uno può essere diverso perché è nero, perché è più alto, perché è più basso, eccetera, ci vuole sempre una dialettica. Non ci sono buoni e cattivi. Ci sono sempre tutti esseri umani, colorati o non colorati che siano. E quali strumenti usa? Quale terapia, diciamo, per curare la malattia? La psicoterapia, che non è la psicanalisi, perché la psicanalisi non ha mai capito niente di questa realtà inconscia. La psicanalisi vuol dire quella tradizionale di Freud, eccetera? Sì, esatto. Freud era un fascista. Era amico di Mussolini, ha fondato il fratello di Goering, che ben noto capo dell'aviazione nazista, ha fondato l'istituto di psicanalisi in Germania. Scherziamo, quindi passa per democratico eccetera, ma è un fascista totale, perché dice quello che conta è la repressione. Poi queste cose non si dicono, c'è una truffa culturale in giro. Gaetano era quello che era contentissimo della dichiarazione di guerra dell'Austria all'Italia. E quando invece l'Austria perdette, fece una depressione patologica, eh? Era un guerrafondaio, stava per l'impero asburgico. Insomma, tutte cosette adesso, inutile farla troppo lunga. È l'interpretazione dei sogni, è andare all'inconscio, e la via è quella dell'interpretazione dei sogni, cioè riuscire a comprendere e portare alla conoscenza quello che succede in questo terzo di vita, che sono le 7-8 ore di sonno. E lì né filosofia né medicina c'è mai andata. Io ormai sono 50 anni che lo faccio, lo faccio quotidianamente più volte. L'altra cosa interessante è che la sinistra dovrebbe intendere è che è una cosa collettiva, aperta, gratuita. Non ci sono classi sociali. Questo imbroglio freudiano significa mettersi sul lettino, come ha detto Bertolucci e Woody Allen, per 25 anni, pagando profumatamente per fare le sedute individuali che non servono assolutamente niente. L'ha detto Woody Allen, l'ha detto Bertolucci e lo dicono in tanti altri. Per lei deve essere collettiva dunque la psicoterapia? La mia è stata sempre collettiva, cioè sempre, adesso mi fa confessare i miei peccati, perché quando ero piccolo ho fatto l'analisi individuale, ho fatto psichiatra, poi nel 74-75, dopo aver scritto dei libri, aver capito quali cose, sono venuti, non è che l'ho fatta io, sono venuti una massa, centinaia di persone a dire: interpreta i miei sogni, sto male, curami. E io ho risposto, non ho detto vieni nel mio studio a pagarmi, no, io ho risposto, era un'aula universitaria, e poi eravamo universitari, poi i grandi universitari, che non ci sono più, dissero che no, troppa gente, fa ghiaccio, eccetera, eccetera, a parte che c'era una realtà di stanze piccole, allora mi sono trovato una bella stanza grande a Via Roma Libera, e lì continua il grande gruppo, no? Così pubblico, perché siamo tanti, non è che pubblico, chiudo le porte, insomma, quando alla fine, perché questo è uno studio privato, per tante ragioni, anche legali, eccetera, eccetera. Però io non chiedo nemmeno il nome di chi viene, chiedo che reddito nemmeno, niente, non chiedo assolutamente niente, mai chiesto niente a nessuno. Assolutamente libera, assolutamente democratica, c'è il rapporto interumano diretto, immediato, senza, e possibilmente, e non possibilmente, e realmente inconscio, senza tante sovrastrutture di identità sociali, professionali, per cui non c'è l'ingegnere, non c'è il medico, c'è il so che c'è, sono professori, eccetera, universitari, scienziati, però io non li conosco, non considero assolutamente niente. Gli viene la persona, l'essere umano, che dice io sto male. Io sto male, perché stai male? Ma che ne so, faccio brutti sogni, vediamo questi brutti sogni. Cos'è? E c'è una carenza, c'è questo, una carenza, e faccio il medico psichiatra, e curo con l'interpretazione. La conoscenza diventa cura. E la sinistra politica che cosa avrebbe da imparare, diciamo, da questo metodo? La realtà umana. La sinistra politica deve riconoscere che Marx, con tutta l'onestà, eccetera, ha detto tante belle cose. Però si deve ricordare una cosa che non conoscono, che io ho scoperto 50 anni fa. Una lettera al padre del 10 novembre 1837, 19 anni, in cui diceva: caro papà, io ho cercato la realtà umana e non ci sono riuscito. Volevo cercare la perla delle perle, ma sono andato a finire nelle braccia di Hegel. Chiuse e si dette all'economia politica. Ci fu un primo periodo giovanile di umanismo marxista, di Marx, che si dice, nel 1845, con l'ideologia tedesca e la Sacra Famiglia, cambiò. E per cui quello che contava era l'economia politica. Era il problema, per cui il problema non era più la realtà umana, men che meno quella inconscia. non ha seguito più Feuerbach, per rifarsi all'economia politica, per cui il problema era che sfruttamento della forza lavoro dell'operaio. Il problema era il rapporto di schiavitù che si era creato con le città all'inizio dell'anno 1000, quando il servo della gleba che stava intorno al castello e dipendeva completamente dal feudatario e gli portava dei frutti dell'agricoltura, diventa cittadino. Diventando cittadino diventa artigiano. Questo è il capitale, su. Uh-huh. Diventa artigiano e fin qui andrebbe bene. Soltanto che quando ha successo si trova in mano una somma di denaro, un avanza, un plusvalore. Immediatamente che fa? Assume salariati. E lì scatta il discorso del capitalismo. I salariati vengono sfruttati perché si basa per meno dà e meglio è, perché quello che conta è aumentare questo surplus che è il capitale. E allora qui è tutta la base. La realtà umana? Zero. Questo dice che poi si farà questo comunismo, che sarà una società ideale in cui tutti gli uomini saranno realizzati. Per cui cambiano 5 volte al giorno, la mattina fanno colazione, poi studiano, poi vanno a spasso, poi tornano a lavorare, poi ritornano 5 volte, poi fanno l'amore, eccetera. E questa è la società ideale, perché la società soddisfa tutti i bisogni. Soddisfacendo tutti i bisogni l'uomo si realizza. Non è vero. Si possono realizzare tutti i bisogni, arrivare al livello di soddisfazione dei bisogni, come è accaduto anche in Svezia, eccetera, e il numero di suicidi è aumentato vertiginosamente. Mm-hmm. Si danno queste cose, no? Per cui bisogna occuparsi della realtà umana. Ecco che 4-5 anni fa, eccetera, all'arrivo, l'incontro con Bertinotti, che si interessava della ricerca sulla realtà umana, è un entusiasmo, è stata una splendida storia, che non rinnegherò mai. Soltanto che dopo quella scissione è lì, la politica ha prevalso, è venuto fuori un bando che è comunista, cattolico, eccetera, e no, non ci sto più. No, il scatto comunismo è proprio la cosa peggiore che ci possa essere. E va a votare Bonino Pannella. E vado a votare Bonino Pannella, la cosa che si scopre è che sotto il comunismo c'è una religiosità mostruosa. Da quando Togliatti è tornato nel 1944, che si chiamava Ercoli, è fatto la svolta di Salerno, per cui bisognava fare l'alleanza con i cattolici, cosa che fece Berlinguer. E poi, sai, meglio di me, si sfasciò il Partito Comunista, 89, vabbè, tutte queste cose. D'accordo? Invece Bonino e Pannella hanno mantenuto questa laicità, questa identità umana, anche se la teoria mia sa di più di quello che sapeva Pannella, che sa Bonino, però Pannella ha detto che quella la mia ricerca concorda perfettamente con la politica, la prassi politica sua e del Partito Radicale, che cerca la realizzazione dell'identità umana. Oltre, certo, la soddisfazione dei bisogni è fondamentale. Ma non basta. Però non basta. Professore, è stato molto gentile stare con noi, la ringraziamo. Grazie a voi, mi fate chiacchierare, sono più stimolato di chiacchierare. Ci fa delle piccole lezioni universitarie. Esatto. Abbiamo pure un auditorio anche più vasto delle persone che stanno nella sua aula. Ma guardi che le mie lezioni, ho finito l'anno accademico proprio oggi, e sono seguite da migliaia di persone, con internet eccetera, un migliaio sono là, vengono direttamente a Chiesi, ma poi altre migliaia si collegano con internet, perché è trasmesso su internet. Grazie professore. Anche voi ci avete un bello auditorium, allora grazie a voi. Grazie a lei. E adesso vado a votare. Buon voto. Pannella e Bonino, d'accordo? Grazie al professor Massimo Fagioli, che è stato con noi in diretta per questa intervista, per questa dichiarazione di voto, ci ha parlato della sua ricerca. Fagioli è un personaggio molto noto a chi si occupa di psicanalisi, di psicologia, di psicologia del profondo, come si dice, ed è stato noto anche ai giornalisti, alla stampa politica negli ultimi anni, proprio perché appunto questo legame con Bertinotti ha, diciamo, caratterizzato anche le cronache politiche, retroscena degli ultimi anni. Lo abbiamo sentito però dirci appunto che vota Bonino Pannella in queste elezioni perché non gli piace la tendenza assunta dal partito di Vendola e degli altri, Sinistra e Libertà, il partito che mette insieme un pezzo di Rifondazione Comunista e i socialisti, i verdi e la sinistra democratica. Allora, la nostra programmazione prosegue in questo modo nelle prossime ore. Alle 19 c'è il notiziario, tra 5 minuti, poco meno, con Cristiana Pugliese vedremo tutte le notizie della giornata e anche le dichiarazioni politiche, non solo quelle che riguardano le europee. Poi stasera però continueremo a prendere le vostre telefonate, le vostre dichiarazioni di voto, le vostre impressioni su questa campagna elettorale. Si vota fino alle 22 oggi, poi si riprende domani mattina, si vota per tutto il giorno anche domani. Stanotte verosimilmente continueremo a tenere i microfoni aperti alle vostre telefonate, forse anche con Marco Pannella. In ogni caso andremo avanti oltre, diciamo, la tradizionale ora di chiusura della nostra programmazione, quindi fino alle 2, alle 3, forse anche fino a domani mattina. Vedremo poi come si svilupperà la serata. Domani di nuovo ancora microfoni aperti, ma anche comizi di altri leader politici. Oggi vi abbiamo fatto ascoltare Berlusconi e D'Alema, ma vi vogliamo proporre anche altri comizi di chiusura. C'è stato quello di Casini, per esempio, che contiamo di farvi ascoltare. Ci sono stati altri comizi di chiusura dei radicali, perché i radicali hanno chiuso la loro campagna elettorale a Roma, a Campo dei Fiori, il 4, ma poi il 5 sono stati in altre città, a Torino, a Milano, a Genova e quindi a Padova. Quindi varrà la pena di farvi ascoltare almeno alcuni di questi comizi di chiusura. Poi c'è stato anche un avvenimento, una piccola notizia che riguarda il diritto di voto dei malati intrasportabili, oggetto di una battaglia parlamentare dei radicali voluta da Rita Bernardini per il diritto a votare a coloro che non si possono muovere da casa ma che non hanno riconosciuto il diritto di votare a domicilio perché non sono considerati completamente intrasportabili. Ce ne sono molti in Italia, è stata approvata una legge proprio qualche settimana prima del voto. C'è un cittadino da cui in qualche modo tutto questo è partito, che si chiama Severino Mingroni, che è un candidato della lista Bonino Pannella. Ha tenuto una conferenza stampa Mingroni proprio insieme alla Bernardini nella giornata di ieri. Anche questo è un documento che contiamo di proporvi nel corso delle prossime ore. Insomma, molto, molto materiale, quindi continuate ad ascoltarci perché ci sono molte altre cose che vogliamo raccontarvi nel corso di questa serata e della giornata di domani. Adesso però ci fermiamo, ma solo per 2 o 3 minuti di pausa, poi alle 19 torniamo in diretta con Cristiana Pugliese e il notiziario.